eccomi, sono qua. E sto cercando di capire che cos'è che non va nella vita. Cerco la felicità e la mia mano la piglia, ma in un batter di ciglia è svanita. Voglio zero problemi, poi però senza emozioni. Mi sento perso, non ho più schemi. Cazzo che controsensi, quanto è brutto quando prima sbagli tutto e dopo pensi. Se l'avessi saputo non l'avrei fatto. Certo, avessi potuto non l'avrei detto. Quante situazioni che si sono risolte, quante le fatiche per arrivare alle svolte. Altre invece sono andate a scatafascio. Mi sono attaccato al cazzo e ancora non lo lascio. Continuo in questo modo, sciolgo il nodo dei perché. Mentre cuocio nel mio brodo come tutti come te. Siamo pieni di guai, tanto che non lo sai. Che dove vai, vai, addosso ce l'hai. Siamo sempre pieni di guai, chiediti come mai. Non ti abbandonerò mai, non ti abbandonerò. Siamo pieni di guai, tanto che non lo sai. Che dove vai, vai, addosso ce l'hai. Siamo sempre pieni di guai, chiediti come mai. Non ti abbandonerò mai, non ti abbandonerò. E resto immobile in silenzio sulla strada che va in salita. Cerco la felicità in ogni atto che mi tedia di questa commedia infinita. Voglio un regicidio, una città in subbuglio. Ma sto tafferuglio mi dà fastidio. Cazzo che controsensi, quanto è brutto quando prima sbagli tutto e dopo pensi. Sì, se mi fossi fermato ci sarei stato. Certo, se fossi partito sarei arrivato. Quante situazioni che non sono mai nate. Persone mai conosciute, parole mute. Quanti sentimenti mai espressi, quanti compromessi. Elimino le tracce degli errori non ammessi. E i miei guai come bastoncini da Shanghai. Più li levo più s'ammazzano e mi chiedo come mai. Siamo pieni di guai, tanto che non lo sai. Che dove vai, vai, addosso ce l'hai. Siamo sempre pieni di guai, chiediti come mai. Non ti abbandonano mai, non ti abbandonano. Siamo pieni di guai, tanto che non lo sai. Che dove vai, vai, addosso ce l'hai. Siamo sempre pieni di guai, chiediti come mai. Non ti abbandonano mai, non ti abbandonano. Siamo pieni di guai, tanto che non lo sai. Che dove vai, vai, addosso ce l'hai. Siamo sempre pieni di guai, chiediti come mai. Non ti abbandonano mai, non ti abbandonano. Siamo pieni di guai, tanto che non lo sai. Che dove vai, vai.